fregato e più parli meno pensi alla fine che hai detto. Cerchi di fregarmi utilizzando paroloni in italiano quasi perfetto. Bisogna crescere, bisogna spingere, poi assumere posizioni nuove ma estetiche, cristalliche, ma ehi, io ci credo per davvero. Siamo nuvole che poi vagano nel cielo. Ma ehi, io ci credo per davvero, che come briciole che poi cadono dal cielo. Utilizzando un macchinone ma alla fine io ci piscio anche dentro. Bisogna crescere, bisogna spingere e poi assumere posizioni nuove ma estetiche e misteriche. Ma ehi, io ci credo per davvero. Siamo nuvole che poi vagano nel cielo. Ma ehi, io ci credo per davvero, che come briciole che poi cadono dal cielo, cielo. Non essere pubblico è troppo sadico, perché sei unico ma sei un esercito. Non essere pubblico è troppo sadico, perché sei unico ma sei un esercito. Non essere pubblico è troppo sadico, perché sei unico ma sei un esercito. Non essere pubblico è troppo sadico. Per davvero siamo nuvole che poi vagano nel cielo. Ma ehi, io ci credo per davvero, che come briciole che poi cadono dal cielo.